ama quei respiri che mi toglierai. Spandi i miei silenzi, distanti infiniti che percorrerai. Stendi i tuoi orizzonti nei miei cieli bui. Curva i miei tramonti, ripiega gli inverni dentro gli occhi tuoi. Ma non perdere la fiducia, la fiducia, la fiducia. Tu che attenti il mio dolore ma non senti come brucia. Il tuo sguardo è il fragore dei cristalli che in me infrangerà. Che rincorrerai spazi oltre i confini, dovunque li perdi mi ritroverai. Salta i miei cancelli e spalanca.